Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Come ampiamente previsto, Leo Messi non ha vinto il pallone d'oro, lo ha stravinto con 473 voti sui 480 possibili. La classifica pubblicata da France Football vede al primo posto Messi, al secondo Cristiano Ronaldo, al terzo e al quarto altre due pedine chiave del Barça, che sono Xavi e Iniesta, al quinto Eto'o, che non è più del Barça, ma per quello è stato, per la sua militanza nel Barça, credo più che per l'inizio nell'Inter, è stato premiato. Sesto Kakà, settimo Ibrahimovic, ottavo Wayne Rooney, che forse a parer mio qualcosa di più meritava, nono Drogba, pure lui, e decimo Gerrard. Bentornato Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Sto solo pensando a se quel giorno a Stamford Bridge Iniesta non avesse fatto quel gol a tempo quasi scaduto. Cambiava. Probabilmente sì. Non so questo, probabilmente cambiava anche questo, certamente cambiava. Cambiava la Coppa dei Campioni, insomma, cambiava tante cose. Con te non vorrei soffermarmi tanto sul pallone d'oro, perché questo lo farei più tardi con il giurato italiano, l'italiano che materialmente vota per questo premio, cioè Roberto Beccantini della Stampa, quanto sul Messi e sul Barça che abbiamo ammirato domenica sera contro il Real. Intanto mi pare abbiate battuto, quasi demolito il vostro record di ascolti. Davvero meraviglioso, la collocazione oraria era perfetta per domenica, perché si incastrava perfettamente, benissimo Gigi, quanto sia importante per fare un buon risultato di audience avere una condizione favorevole, cioè il fatto di non essere in concomitanza con altri avvenimenti che ti possono portare via ascolto. Quindi insomma, quegli oltre 700.000 spettatori fissi, ma con contatti ben oltre il milione, che hanno visto Barcellona-Real Madrid, rappresentano per noi a Sky il record assoluto per quanto riguarda l'audience di una singola partita di calcio internazionale. Soprattutto è un record che demolisce quello precedente, che apparteneva a un altro Barcellona-Real Madrid, quindi a un altro classico, e insomma dà la convinzione che di una cosa di cui eravamo francamente certi, e cioè che questo record potrà resistere, credo, fino alla gara di ritorno, perché se nella gara di ritorno a Madrid le due squadre saranno ancora in competizione, come tutti pensiamo, per vincere la Liga, e se ci sarà un orario favorevole, perché erano le 19, quindi si usciva dalle partite di Serie A alle 17. Alle 17 c'era un entusiasmante, sulla carta, poi magari in campo un po' meno, Arsenal-Chelsea, e poi alle 19 prima anche di Catania-Milan, quindi si potevano pescare tutti i tifosi, quelli certo, del Milan, quelli dell'Inter, della Juventus, ma c'era veramente un filotto, c'erano tutte le condizioni. Un filotto domenicale da viziosi veri. Unisci il brutto tempo, certo. Anche il tempo brutto. Indovinato giovedì parlandone, anticipando. Bravo, è vero, ve lo ricordo. Allora, il numero da giocare, no, non si possono giocare questi numeri così grossi, ma sarebbe il 711, perché sono 711.000 gli spettatori su Sky che hanno visto Barça Real. Erano 711, sto vedendo dalla Gazzetta di oggi, i giornalisti accreditati al Superclassico. C'erano 97.138 spettatori, insomma, dà un'idea più o meno, no? della cornice. E insomma, per un giorno, certamente Barcellona è stata la capitale del calcio europeo. Tornando su alcuni spunti di quella partita, credo che tutti, a cominciare i telecronisti, abbiano spasimato per Puyol, che ha veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo non so in quante occasioni. Ma se torniamo al pallone d'oro, a me è molto piaciuto Messi, perché insomma, con una gamba da non lasciare andare del tutto per ragioni muscolari, con un periodo di ispirazione di forma abbastanza relativa, comunque ha fatto ammonire tutta la difesa Real, tanto per cominciare, e alla fine ha recuperato 3 o 4 palloni all'indietro, che vuol dire aver seguito l'esempio di Puyol, no, in quella partita, cioè vuol dire metterci il cuore e non solo il talento. Ma io credo che in partite come queste, e non sto parlando di Messi, anche il giocatore più disattento, anche il giocatore più distratto nelle fasi che solitamente non gli competono, dia un po' di più. Messi non è uno che è conosciuto per andare in tackle, anche se ogni tanto lo fa, e lo fa in maniera anche abbastanza dura, non è un giocatore tenero Messi, perché quelli che prendono tante botte poi sono spesso capaci anche di darne. E Messi è stato bravissimo anche nelle situazioni che hai ricordato tu, e questo dimostra davvero la grandezza di questo ragazzo. Credo che nessuno scopra Messi oggi, nessuno possa dire in maniera originale quanto bravo sia Leo Messi. Il fatto che ogni tanto riesca a trovare anche la forza, la voglia, il tempo di andare a contrastare e anche andare a recuperare dei palloni in zone di competenza non sua, ne fanno oggi un giocatore certamente inarrivabile, per cui non ci sono veramente paragoni. E credo che hai detto bene tu, vedere Puyol che si immolava come io ho visto raramente, cioè a me ha ricordato Cannavaro ai mondiali del 2006, ma poco altro, nel senso che certo, poi, vero. Certo, non il Cannavaro di oggi, non il Cannavaro di Cagliari sicuramente, però quello della Germania sì, insomma lui si è veramente, diciamo Franco Baresi, dai, mi ha ricordato Franco Baresi, nel senso che aveva questa capacità straordinaria di andare a murare qualsiasi conclusione degli avversari, perché dobbiamo ricordarlo, ed è giusto farlo, che il Real Madrid ha giocato una signora partita. Come no? Ha giocato una eccellente partita, posso anche dire, credo senza sollevare moti popolari, che il Real Madrid avrebbe potuto non solo non perderla ma anche vincerla, andare in vantaggio certamente subito all'inizio, soprattutto con Ronaldo quella meravigliosa giocata di Kakà che ha liberato Cristiano Ronaldo. La cosa curiosa è che Cristiano Ronaldo lì non ha messo in porta un pallone che 9 volte su 10 lui mette, e lo stesso Messi non ha messo in porta nel finale un pallone che lui 10 volte su 10 mette, perché il gol è verissimo. 2-0 Messi ce l'aveva proprio nei piedi. È vero anche però che in tutti e due i casi i portieri hanno fatto due grandissime parate. Bravissimi, mi sembra incredibile che Casillas ogni tanto abbia degli sbandamenti, perché altrimenti lui ha veramente le qualità di Buffon a livello assoluto. Ogni tanto, mi ricordo la partita con il Milan in Champions League, ogni tanto prende delle cantonate mostruose. Di Victor Valdés invece ricordiamo a volte qualche amnesia, ma alla fine bisogna convenire che è un portiere che il suo lo sa fare. Sì, comunque ha fatto una parata di piede nel primo tempo mostruosa. E comunque abbiamo visto una bella partita. Abbiamo visto una bella partita. Non il 6-2 della primavera, di primavera al Bernabeu, ma una signora partita ugualmente. Anche perché è più difficile, più tirata, e quindi. La partita equilibrata in certi casi è più bella di quella che c'è con punteggio tennistico, certo. Perché ovviamente un 6-2 è troppo. Poi ricordiamo che quel Real Madrid veniva da un cambio di allenatore, cioè, un sacco di cose. C'è un messaggio di un ascoltatore che tira un tantinello all'orecchio ai tuoi cugini non è a Sky Sport 24 ma al TG di Sky 24, che oggi ha detto essere Messi il primo argentino della storia a vincere il pallone d'oro, dimenticandosi Omar Sivori e prima di lui ancora Alfredo Di Stefano, la saetta rubia. Non proprio due da lasciar cadere nel dimenticatoio. Torniamo con compagnia di Fabio Tavelli. Beh, credo che possiamo liquidare abbastanza brevemente il Chelsea, non tanto perché non meriti il massimo della ribalta e degli onori, visto come sta andando da Ancelotti a Drogba a tutti gli altri protagonisti, quanto per il fatto che insomma, non è una novità, direi, come argomento in questo momento. No, non è una novità. L'unico problema del Chelsea, che è 5 punti più del Manchester United e 10 più del Tottenham, che è terzo, ed ha vinto con una sicurezza, una tranquillità disarmante. Ha ricordato il Chelsea del primo Mourinho e ha ricordato, e forse addirittura meglio, nel senso, da un punto di vista complessivo, meno sparagnino, meno chiuso all'indietro. Drogba qualche anno in più, ma Drogba è un giocatore pazzesco. C'è stata anche un po' di fortuna sull'autogol di Vermaelen. Comunque, in ogni caso, il Chelsea merita di stare dov'è. Ancelotti sta facendo un lavoro fantastico. L'unico problema che può impensierire Ancelotti è vedere come saprà gestire i sovraccarico natalizio. Come tutti sappiamo, in Inghilterra si gioca parecchio in quel periodo, e soprattutto poi quando gli verranno a mancare Drogba, Aubameyang e Essien per la Coppa d'Africa, come riuscirà a tenere in quel periodo lì. Se lo fa, se limita i danni, il Chelsea intanto la Premier la vince sicura e diventa un candidato fortissimo per la Champions League. Certo, c'è quell'incognita della Coppa d'Africa e probabilmente stanno tirando un po' il collo adesso anche per mettere fieno in cascina. Indubbiamente questo ha una logica. Tra poco ci saranno i vostri primi interventi in diretta all'800 24 0024. Mi pare che la scena, Fabio, del calcio internazionale di settimana l'abbia rubata Blatter. Quello che non capisco è se era rubata Blatter o l'ha rubata l'Irlanda, perché insomma questa richiesta irlandese di partecipare a 33esimi, ieri un ascoltatore a Dumblè l'ha definita patetica e mi è sembrato l'aggettivo più appropriato. Ma è certamente patetica, credo che abbia davvero zero probabilità o zero possibilità di essere accolta. Ho anche il sospetto che non fosse manco una richiesta, ma fosse una sorta di lamentela, di rimostranza nei confronti di Blatter da parte della delegazione irlandese, che comunque come atto dovuto doveva andare alla FIFA e protestare, perché è giusto protestare, è giusto farsi sentire, ma la cosa deve finire lì. Poi Blatter, che è un istrione, è un personaggio davvero creato da qualche sceneggiatore hollywoodiano, perché lui riesce a vendere sempre qualcosa e per alzare un po' l'attenzione in un momento nel quale insomma il mondiale è ancora abbastanza lontano, ma venerdì insomma ci saranno i sorteggi, lui si è inventato questa sorta di wild card che, ripeto, ha zero possibilità di essere accolta, è un totale non senso. Mi viene il sospetto che non Blatter, la FIFA, non abbia ancora venduto i diritti alle TV irlandesi per la cerimonia di sorteggio di venerdì, perché non c'è un'altra spiegazione, non è possibile. Questa non è male davvero. No, ma perché altrimenti chi ha perso una finale di un mondiale contro ad esempio l'Inghilterra per un gol che probabilmente non era gol, potrebbe chiedere in maniera postuma l'assegnazione della Coppa. Partirebbe il revisionismo, no? Come no? Il famoso revisionismo di cronaca, storico e finché ce n'è. Strano, perché Blatter in fondo, e potremmo forse oggi concludere più o meno così, non solo ha la sua grande ribalta venerdì sera quando giocherà con le palline, che insomma è il suo grande momento che cade ogni 4 anni di ribalta, di show e di visibilità, ma sin da domani con questo esecutivo UEFA, FIFA, avendo messo all'ordine del giorno i due giudici di porta, l'ammissibilità fin dal mondiale dei due giudici di porta, mi pare che la visibilità già l'avesse, quindi questo mi fa pensare che in realtà sta storia d'Irlanda sia vera, tutto sommato. Sì, è verosimile, dai. Facciamo verosimile, dai. Devo dirti che questa dei giudici di porta mi sembra una cosa più seria e devo grazie se finalmente li metteranno. Devo dire che chi ha visto ad esempio Fulham Roma da pochi metri dal giudice di porta mi ha raccontato che questo giudice di porta praticamente non si è visto e sentito mai. La sensazione è che siamo a livello ancora talmente sperimentale che siano delle figure ancora non particolarmente inserite all'interno della terna o della quaterna arbitrale. Questo è un giudice che ha un senso se ha un potere vero, cioè se può dare all'arbitro delle informazioni interessanti, e sappiamo bene quanto sia importante aiutare l'arbitro, prova ne sia il derby di Genova a Rosetti sabato sera, per cui insomma per me ben vengano i giudici di porta, ben vengano gli occhi umani, però che abbiano la possibilità di dire qualcosa e di aiutare, non di essere lì a fare passerelle. Come il quarto uomo, che diventino qualcosina più del vigile urbano a bordo campo. Grazie Fabio. A voi, alla prossima settimana. Chiudiamo il collegamento con Fabio Tavelli, sono già degli ascoltatori in attesa, volevo farvi sentire un paio o tre di voci, a cominciare da quella di Totti che parla di un possibile rientro azzurro. Io con lui ho sempre avuto un grande rapporto e l'ho tuttora, soprattutto fuori dal campo, e è normale che, come ho sempre detto, il rapporto tra me e lui va oltre il calcio. Il momento decisivo penso sarà verso marzo-aprile e valuterò la mia condizione e valuterà anche lui. Lui è ovviamente Marcello Lippi. Questo era un frammento di un discorso più ampio che Totti ha fatto per l'appunto sui suoi rapporti con Lippi e quindi sulla possibilità che, lo ha detto poi chiaramente, a primavera si faccia un ragionamento su un eventuale suo rientro in nazionale per il Mondiale. Mettiamo ancora un paio di argomenti all'ordine del giorno prima di dare spazio agli ascoltatori. Sentiamo Blank. Non è a rischio il mister, ha tutta la nostra fiducia, la mia fiducia, a cui lavora bene, è una persona di grande capacità, un grande lavoratore, ha con lui un staff di qualità, quindi sono due partite importanti per il campionato e per la Champions League, ma ovviamente le affrontiamo con professionalità, serenità e un grande impegno al lavoro. E questa era la difesa di Blanc, del presidente della Juventus, rispetto alle voci che vorrebbero Ferrara in difficoltà o comunque legato all'esito delle due prossime partite, anzi della seconda delle due partite, insomma sì, certamente anche Juventus-Inter, ma soprattutto Juventus-Bayern Monaco, in cui alla Juventus basta il pari, ma è anche vero che pure i tedeschi si giocano tutto in quella occasione. Marco, chiamato da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io ieri ho sentito la sua trasmissione, ho sentito l'ultimo ascoltatore che chiamava da Bologna dicendo che a Bologna non si verificano cori razzisti verso giocatori neri. Purtroppo i cori verso Balotelli sono di fede juventina, sono non razzisti, comunque brutti. Il problema è che i tifosi sono convinti che insultare i giocatori con cori del tipo ad un giocatore che gli morì il padre, gli cantarono cucù, tuo padre non c'è più, e ad un altro giocatore, appunto, in un derby Bologna-Modena, ricordo un giocatore del Modena di colore, gli facevano il classico ululato razzista, certo. E chiedendo a un mio più o meno amico il perché facesse questo coro, dicesse: no, ma non è razzismo, è solo per tifo, certo, per simpatia. sì, tifo, lo chiamano tifo. Esatto, secondo me sono da debellare in una maniera più assoluta, non con l'acqua, con l'idrante come hanno fatto sabato sera con i doriani, derby favoloso, ma con l'idrogeno liquido proprio. Con l'idrogeno liquido, dice lei. Beh, insomma, io sulle sanzioni lascerei, lascerei che decidere fossero quelli che le devono materialmente adottare. Certo, credo che questo sconcio complessivo non... insomma, debba essere stroncato con le buone o con le cattive. C'è un intervento di Moratti appena uscito sulle agenzie. Certamente Balotelli non è sul mercato e non sarà sul mercato. Così il presidente dell'Inter, vi leggo questa agenzia appena uscita, ha escluso che Balotelli possa lasciare la squadra dell'Inter. C'è da aggiustare tra lui, la squadra e l'allenatore, il comportamento, ma questo è dovuto anche all'età. Niente di grave. Ci vuole una certa abitudine a vivere insieme ai compagni e insieme all'allenatore con certe regole, ma non credo sia niente di drammatico. Sullo sfondo c'è l'ormai acclarato fastidio che Mourinho ha nei confronti di Balotelli, e c'è anche par di capire, anzi i giornali oggi sono molto chiari in proposito, c'è anche sullo sfondo c'è anche questo punto di vista molto diverso tra società e allenatore. L'allenatore ha già annunciato di averlo praticamente escluso per la trasferta di Torino, la società preme perché Balotelli invece faccia parte dei convocati per Juventus-Inter. Alessandro dalla provincia di Varese, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Io telefono saltuariamente quando riesco a sentirvi e quindi ho domande generiche. Sì. Quindi, prima parlava di Real Madrid-Barcellona, la capitale probabilmente domenica scorsa del calcio europeo. Mi sembra di ricordare in generale che invece il calcio sudamericano, mentre le squadre europee si giocano a son di milioni di campioni sudamericani, gli sudamericani non devono portarsi via i giocatori europei, o forse i giocatori europei non sono interessati ad andare in Sud America. È così perché i giocatori europei, perché dato che in America di quattrini non ce n'è, la metto sul volgare, ma insomma per capirci più in fretta, il Sud America non è in grado nella sua generalità di permettersi gli ingaggi che invece vengono, insomma, i contratti che invece vengono offerti in Europa, e questo spiega la migrazione in un senso solo, cioè dal Sud America verso l'Europa e non dall'Europa verso il Sud America. Un omaggio sonoro al neopallone d'oro, ascoltate. Messi desde la mitad de la cancha, una corrida excepcional. Arranca en diagonal, va por la posición de número 8, se está arrimando al área. Hace un regate para afuera, otro para adentro, escapó. Se volcó a la derecha, tocó con la derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Messi! ¡Leo Messi! ¡Satélite del planeta inolvidable! Para gritarlo en España, para gozarlo en Argentina, para admirarlo en el mundo. Messi en lo más alto del fútbol mundial. Io continuo a pensare che quando i nostri radiotelecronisti si sforzano di imitare quelli di scuola spagnola, in questo caso sono spagnolo vero, ma insomma argentini o brasiliani, non sbaglino, perché comunque non arriveranno mai, io temo, credo, a questa altezza di suggestione. Le chiedo conferma a Roberto Beccantini della Stampa. Roberto, buongiorno. Buongiorno Gigi, certo, anche perché nemmeno i nostri giocatori arrivano a certe questo è il problema. Sapevo che avresti trovato la battuta, che in effetti è felicissima. Satellite de Diego Armando Maradona, ha detto, no? Qualcosa di questo genere. Questo era un vecchio, si fa per dire, 2 anni fa, un gol a Getafe in slalom che ricordò molto, sì. Diego Maradona contro in Coppa, tra l'altro. Certo, è proprio questa, Gigi, la differenza, il confine della sfida. Maradona fece un gol simile nei quarti di un campionato del mondo nel 1986. Lionel l'ha fatto in Coppa di Spagna, che è un trofeo nobilissimo, ma non certo all'altezza di un mondiale. Certo. Quando lo farà anche in nazionale a quei livelli, allora Maradona avrà sicuramente trovato il suo erede. Certo. Senti Roberto, dicevo prima agli ascoltatori che tu hai da quanti anni ormai? Ma diciamo che da metà degli anni Ottanta, prima con Sergio Di Cesare e poi in solitario. E poi in solitario, quindi dai, insomma, da 25 anni, diciamo, da un quarto di secolo almeno, hai il piacere e l'onore di essere il giurato italiano per il Pallone d'Oro. Ricordo che France Football ha allestito dal 56 in poi una giuria di giornalisti, uno per nazione, ed è dai voti di questi giornalisti. Voi votate 5 giocatori, vero? Esattamente, con voti decrescenti, 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. E per l'Italia vota Roberto Beccantini. Allora, è già successo anche gli altri anni, rispettiamo questo rito perché ci fa piacere sapere il giorno stesso della proclamazione come ha votato l'Italia. Io ho votato così: primo Messi, secondo Cristiano Ronaldo, terzo Rooney, quarto Xavi e quinto Gerrard. E quindi c'era un po' meno Barcellona nella tua scheda di quanto poi non ne sia, insomma, non sia uscito nella classifica generale. Io sono d'accordissimo su Rooney, perché trovo che questo 8° posto in classifica generale sia un po' tanto sottovalutato. Sì, perché è un giocatore che a me piace molto perché non si limita a fare i gol, ma copre tanto campo. Il suo ufficio non lo trova mai soltanto nell'area, ma anche in altre zone, sempre comunque a beneficio di chi si presenta in coda allo sportello, quindi sì. Un attaccante molto completo, che piace molto attorno ai e sul quale, sul calco del quale ci sono allenatori che hanno cercato di costruire altri giocatori, capito? Io penso che il progetto di Mourinho su Adriano fosse un Rooney, solo che poi sai, in mezzo c'era tanta acqua, fra virgolette. Però penso che Mourinho pensasse a Rooney nel avere a che fare col primo Adriano. Roberto, io credo, mi domando, in questi anni in cui ogni tanto, anche qui veniamo accusati di esterofilia ad ogni costo, mi chiedo quando, a parer tuo, riusciremo a riportare candidature, adesso non dico a essere massicciamente presenti come il Barça o come il Manchester United in questa classifica, ma insomma comunque a fare una più decorosa figura per quanto riguarda i club italiani. Sai, visto che conta la vetrina europea e mondiale, contano molto mondiali, europei e Champions League, in ordine a scalare. Il Milan, che è la nostra squadra a più alta vocazione internazionale, si è un po' spento. L'Inter, che è la squadra che sta tiraneggiando sul campionato da anni, ha pochissimi titolari italiani, nessuno, l'ultima Inter. Per cui non resta paradossalmente che la nazionale per cercare di vincere qualcosa. Per cui la fortuna vuole che nel prossimo anno ci siano i mondiali. E lì si parla la nostra nobiltà, perché o facciamo qualche exploit in Champions, ma oggi mi sentirei di escluderlo, o non ci resta che il mondiale, come peraltro successe nel 2006, esatto, con il titolo e il podio. Primo Fabio Cannavaro, secondo Gigi Buffon, che io per la verità votai al contrario. Al contrario, ecco, ricordo questo, cioè nella tua scheda c'era al primo posto Buffon, vero? Sì, sì, per quella parata, guarda Gigi, su Zidane nei supplementari d'Italia-Francia, quello mi fece cambiare il voto. Non sapevo ancora se avremmo vinto, però è chiaro che quando tu arrivi in finale e vai verso un epilogo ai rigori, che per me non è, poi ho battuto la Francia o sono stato battuto la Francia, i rigori sono un'altra cosa, indispensabili perché bisogna assegnare subito il titolo, però ecco, quella parata lì è veramente straordinaria. Non c'è dubbio. Io ringrazio Roberto Beccantini per questa sua partecipazione straordinaria e appuntamento dunque alla no, ci sentiremo prima e non una volta sola, ma insomma appuntamento alla prossima votazione del Pallone d'Oro. D'accordo, grazie. Grazie ancora a te, Roberto. Ci sono altri ascoltatori in linea, però ce ne sono anche di altri che sollecitano altri argomenti. Per esempio, molti tifosi del Torino tristi chiedono di ascoltare, insomma, di sapere se con Beretta potrà cambiare la musica, se finalmente il Torino riuscirà a ritrovare perlomeno lo spirito per puntare alla Serie A. Sentiamo Beretta. Credo molto. Non nell'urlo, perché tanto non è che uno più urla più ha carisma, più urla più ha carattere, assolutamente. Basta dire le parole giuste al momento giusto, con grande tranquillità le parole possono essere dette nel momento giusto, molto più incisive che un urlo. Beh, insomma, non, con toni soft, quindi probabilmente Beretta proverà a guarire il Torino. In Spagna la stanno mettendo a Barça Real anche sul numero dei palloni d'oro, leggo un'agenzia appena uscita. La stampa spagnola fa notare che con la vittoria di Messi diventano 7 i palloni d'oro del Barça contro 6 del Real. I precedenti giocatori del Barcellona ad aver vinto il trofeo sono stati Luisito Suarez l'anno prima di venire all'Inter, quindi nel 60, e poi Cruyff 73-74, Stoichkov 94, Rivaldo 99 e Ronaldinho 2005. Ha chiamato Fausto da Lodi, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, io volevo solo esprimere un attimino un mio pensiero. La settimana scorsa ho letto un'intervista di Ibrahimovic dove diceva che a lui piace il calcio spagnolo perché si pensa allo spettacolo e non alla politica. Mi ha fatto pensare un attimino al fatto che, ma non è che i cori ripetuti, susseguiti, minacciati anche che fanno contro Balotelli sono dovuti al fatto che magari qualcuno della curva vuole qualcosa dalla Juve e usi questo come sistema di ricatto? Cioè non sarebbe la prima volta? No, non sarebbe la prima volta, no. I ricatti possono avvenire in tanti modi, questo è indubbiamente, credo, da un punto di vista sociale e umano è certamente il più schifoso possibile, io credo. Poi è vero che tra gli ultra che campano di ricatti alle società, questo è possibile che sia un tipo di ricatto. Poi non so se Ibrahimovic volesse esattamente dire quello o che cos'altro, però è vero che questo può essere, ma non depotenzia certamente la gravità. La gravità del fatto, se anche fosse così, cioè non è che lo riduce, rimane un fatto di gravità assoluta comunque. Fausto da Milano ha chiamato Walter, buongiorno. Buondì. Due belle cose. La prima, lo chiamavamo tutti El Neger, Jair, eppure era grandemente amato. La seconda, credo che È vero, El Neger Jair, perché anche quell'Inter aveva il suono, ma era un'altra Italia, però. Infatti, era un'altra Italia. Il problema è che era un'altra Italia. Mi lasci leggere una mail che è appena arrivata, un quarto d'ora fa, che è firmata da un milanese come lei, credo, che si chiama Gianni Somigli, e che scrive: di questi tempi urlare in stadi e strade non esistono negri italiani deve far provare un brivido di sollievo e di gioia ai neri. Battuta durissima, ma che ci sta. Mi scusi, Walter, continui. Lo chiamava così anche Gianni Brera, quindi... Certo, il Degger, come no? Ecco, la seconda cosa, io non so se Mourinho sia un grande allenatore. Questo fatto che sembra che non porti Balotelli a Torino mi sembra una grande idea. Grazie e buongiorno. Sì, bisogna intendersi sulla ragione, nel senso che lui ha già annunciato che non lo porterà e non lo porterà per ragioni disciplinari. Si parla di un ritardo a un allenamento, si parla di un ritardo a una riunione tecnica, la verità non è stata resa nota. Anche per evitare questo genere di indagine, l'Inter senza proclamarlo, però sta facendo un silenzio stampa in questa lunga vigilia, ma anche per cercare di stemperare la tensione, così almeno dicono loro. Quindi in realtà quello di Mourinho è un provvedimento punitivo, non è una rinuncia a schierare Balotelli a Torino, perché se no, a parere mio, non sarebbe un altro di saggezza, sarebbe una rinuncia grave, molto grave. Non a caso la società, secondo me, nel dubbio che questa possa essere una interpretazione, sta facendo pressione invece perché Balotelli venga almeno convocato. Poi non credo che farà la formazione a Mourinho, anche se qualcuno ha la tentazione, soprattutto in Coppa forse potrebbe averla. Andrea da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Buongiorno. Dottor Garanzini, sì. Sì, mi raccomando. Io volevo esprimere la mia opinione per quanto riguarda il caso Totti, chiamiamolo così. Perché ho notato che Totti tanto è fedele rispetto alla maglia della Roma quanto è incoerente e opportunista rispetto a quella della Nazionale. Perché secondo me, vuol dire, se lui ha detto basta con la Nazionale, l'ha fatto anche Nesta, Nesta è stato coerente, gli hanno chiesto di tornare, Nesta non ha mai detto sì, anzi ha ribadito la volontà di perseguire la sua scelta. Totti invece ogni volta che l'Italia acquisisce una qualificazione, vedi europei, vedi mondiali, ricomincia a pubblicare la sua candidatura alla Nazionale. Questa cosa sinceramente a me non piace. Neanche a me Andrea, e infatti io personalmente non sarei d'accordo su un ritorno di Totti in Nazionale, così come di Nesta, così come non sarei stato d'accordo su un ritorno di Maldini o di Cabrini prima, che se non ricordo male fu il primo il primo italiano, perché all'estero è una prassi abbastanza costante a negarsi a una convocazione. Continuano i messaggi, insomma, a parer mio rassicuranti, comunque vuol dire che almeno qualcuno ancora la capoccia la tiene dove dovrebbe stare. Michele Simonotti scrive: secondo lei sarà più difficile spiegare a mia figlia che non esiste Babbo Natale o che non c'è razzismo nel calcio? Ripassiamo la storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. Primo dicembre 1974, ottavo turno di Serie A. La Roma di Lidl batte la Lazio campione d'Italia per 1-0. Decide nel primo tempo il romano Giancarlo De Sisti, tornato nella capitale dopo 9 stagioni trascorse alla Fiorentina. Ed è un gol che interrompe il lungo digiuno dei giallorossi nei derby di campionato. L'ultimo successo risaliva infatti a più di 5 anni prima. Paolo, chiamato dalla provincia di Alessandria. Buonasera. Dica, buongiorno. Buongiorno, signor Galanzini, anzi dottor Galanzini. Io le telefono per parlarle di un argomento poco usuale, però dato che lei credo sia uno dei pochi giornalisti che oltre di occuparsi di sport si occupa anche di cose un po' più importanti, credo che l'argomento la possa interessare, cioè la moralità nel calcio e la moralità soprattutto in chi giudica il calcio. Faccio riferimento all'episodio avvenuto nella partita Irlanda-Francia. Sì. Se vogliamo dare un messaggio onesto e chiaro ai ragazzi e vogliamo dirgli che chi truffa deve essere condannato, non possiamo raccontare una cosa e farne un'altra. Se vogliamo dire che l'onestà deve essere premiata, non possiamo permettere che dei ragazzi che vedono un episodio del genere non abbiano un riscontro oggettivo. Cioè la Francia, se i soloni e i potenti della UEFA, della FIFA anzi, non decidono di farla andare a casa, è un messaggio terribile e un insegnamento tipicamente, mi scusi perché è andata via la linea. Pronto? Sì, dico, eccolo. Mi sente? Sì, adesso sì, di nuovo. Ho detto che... Sentito. Vede, il calcio è la fotografia della vita, purtroppo. Nella vita di tutti i giorni ci lamentiamo dell'immoralità diffusa, della pubblica amministrazione come nella vita privata. Il risultato finale è che se noi non diamo dei segnali chiari e duri, e le regole si fanno dando i segnali, non si fanno perdonando, perché sennò sa, vale molto bene la regola del peccatore che torna a casa e viene premiato. Qui il peccatore si scusa un po' e poi viene premiata la Francia e se ne vanno tutti tranquilli e contenti a giocare il mondiale. Mi sembra che sia un pessimo segnale per i giovani e per il futuro. Voi che parlate giustamente tanto di educare le nuove generazioni. Paolo, io non ho questa pretesa, a differenza sua, mi pare di capire. Io non mi limito a raccontare quello che succede ed eventualmente a commentarlo. Credo che l'esecrazione per quell'episodio sia stata generale. Credo che quando poi si arriva a questi eccessi manichei come il suo, mi perdoni, si cada nell'eccesso opposto. Il calcio, da che si gioca a pallone, ma dalle sue origini, il calcio, come qualsiasi altro sport, contempla anche l'astuzia, la furbata, il mezzo per il fine che giustifica i mezzi, eccetera. Non torniamo fino a Machiavelli per un gol non segnato con la mano, ma propiziato con un doppio tocco di mano di Henry. Io credo che episodi del genere ce ne siano stati. Ho già detto anche che il gesto di Henry personalmente mi ha dato molto meno fastidio di tanti altri. Le faccio un esempio a caso perché mi viene in mente adesso, ma senza colpevolizzare nessuno. Ho visto contro il Marsiglia Zambrotta andare a buttarsi in area in maniera premeditata, cioè per andare a buttarsi nell'area avversaria bisogna pensarci prima, no? Mentre per controllare un pallone che ti sta scendendo sulla coscia e che ti scappa per lo stop a seguire, il colpo con la mano è assolutamente istintivo. Tra i due io credo che il comportamento peggiore sia quello che ha avuto Zambrotta l'altro giorno, per esempio, no? Ma questo non per ma semplicemente per riportare le cose nel loro ambito. Dopodiché l'errore arbitrale è stato gravissimo, ma si è compiuto in un momento in cui mancavano 17 minuti alla fine, e in quei 17 minuti io credo che la Francia avrebbe ancora potuto pareggiare. Se non avesse pareggiato, avrebbero calciato i rigori. Adesso mandare al muro la Francia o comunque escludere i mondiali, come dice lei, mi sembra sinceramente un po' eccessivo. Abbiamo ancora due ascoltatori, ma credo che questo ce ne riduca uno. Sentiamo Enzo dalla provincia di Cagliari, buongiorno. Buongiorno, grazie dottor Garanzini per l'opportunità. Ero a Cagliari a vedere la Juventus, io sono tifoso da bambino, sì. E sono uscito dallo stadio Santeria con tre preoccupazioni. La prima, che la Juventus continua a non avere gioco e non riesce a gestire la palla ed è sempre in pratica costretta a rincorrere la squadra che ho visto io ieri, ma che avevo già visto nella preparazione, che continua a avere gli stessi difetti. Due. E qui l'altro problema è che Cannavaro purtroppo è in una condizione, sono preoccupato sia come juventino ma come italiano, di averlo come centromediano ai prossimi mondiali in queste condizioni. Tre. Terzo, la mia preoccupazione è che gli arbitri continuano a voler far pagare alla Juventus qualcosa di passato, perché quel rigore stavo in pensiero. Meno male che è arrivato anche il terzo punto, sia pure a fil di sirena, perché abbiamo leggermente sforato di pochi secondi. Grazie Enzo, grazie a Roberto Scaltriti in regia, a Flavio Suardi con Franco Piantanini in redazione. Buon pomeriggio.